Sono esternazioni molto pericolose perché alimentano atteggiamenti di rivincita su temi centrali normati tra l'altro dalla Costituzione, la quale prevede che ci sia il diritto alla salute e alle cure per gli indigenti e quindi non introduce elementi di discriminazione rispetto alle opinioni. Peraltro lo stesso mondo medico sta in questi giorni e mesi curando intensamente i Novax e non pensa assolutamente che questa la sua funzione sia resa non valida per il fatto che alcune persone ritengono di opporsi alla vaccinazione. Insomma, c'è un diritto alla cura è costituzionalmente tutelato, quindi sono sollecitazioni inadeguate a un modo di pensare che non affronterà i problemi sostanziali. Una misura del genere potrebbe mettere in discussione il principio di universalità della cura? Ma non c'è dubbio, questo è la cosa centrale, che tra l'altro è iscritto appunto nella nostra Costituzione. Non è pensabile far pagare al singolo malato alcuni suoi orientamenti e il modo con il quale affronta il malessere sociale. Diciamo, queste sono misure in qualche modo che non colgono l'essenza del malessere che si agita dietro ai Novax. È chiaro che esistono delle situazioni in cui chi non si vaccina mette a repentaglio la salute pubblica, in questi casi occorre ovviamente intervenire, ma non si possono fare semplificazioni di questo tipo. Oltretutto, nello specifico, insomma, sembra abbastanza illegittimo quello di punire in assenza di un obbligo vaccinale. Sì, ma insomma, ribadisco, stiamo parlando di una di una presa di posizione ideologica che tra l'altro solletica ideologie illiberali, intolleranti, antiumanitarie. Cioè, non esiste che i malati non vengano curati. Non capisco quale armamentario culturale l'assessore abbia attinto. Cioè, non capisco, non condivido assolutamente. Mi sembra incongruo con la rappresentanza degli interessi più progressisti e costituzionali della cittadinanza. È un'espressione di degrado totale, insomma, non è pensabile che noi società italiana ci si ritrovi in questo clima di far resta che non è qualificabile, ecco, guardi, non uscite, che solleticano l'elettorato di destra e diffondono idee conservatrici e antiumanitarie. È folle questa presa di posizione. Però insomma, uscite come queste potrebbero poi aprire la strada a anche, come dire, una sanità sempre più ristretta, magari appunto punendo altri comportamenti a rischio. Sì, non c'è dubbio, questo in altri paesi si è già ipotizzato di negare la tutela sanitaria ai fumatori o agli alcolisti e questa è una scorciatoia comoda e repressiva. È chiaro che chi si dedica al fumo e all'alcol, a prescindere dalle componenti di dipendenza che ci sono in queste due sostanze, insieme alle sostanze che vengono assunte con il fumo e con l'alcol, è evidente che si fa pagare agli strati meno favoriti della popolazione la loro condizione esistenziale, perché il tema da affrontare è ciò che poi porta alle dipendenze. Non è un caso che proprio nelle dipendenze si punti a correggere gli stili di vita, diciamo così, e anche a fare denuncia delle condizioni sociali. Quindi questo tipo di proposte, quello di far pagare le cure ai malati, in questo caso cronici, o comunque a chi non è d'accordo, o chi non ha la cultura sufficiente per gestire bene la propria salute, è assolutamente un'impostazione repressiva, io direi incostituzionale addirittura, e dovrebbe vergognarsi le persone che affrontano questi temi, anche mascherandosi sotto il manto della provocazione intellettuale. Non esiste.